schiacciati dall'inverno perenne noi. Il freddo della cella congelava anche i nostri nomi. Come quella neve calpestata dell'esercito del male. Anche se provammo freddo, la fame non svanì. Del mare.